difficile, lo so. Però è mio tuo. Musica allo stato puro. Ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire. Fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino. È il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. E sta? Eh? Sei ciao. Eh? Cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti aspetta qui alle 18. Ogni giorno ti aspetta qui alle 18. Ma se alle 18 non ci sei, io vado. Sì. Io vado. Sì. Io vado. Perché non abbiamo tempo da perdere. Perché non abbiamo tempo da perdere.

be raised as I kick some lyrics on a beat for me. It's time for hell to be raised as I kick some lyrics on a beat for me. It's time for hell to be raised as I kick some lyrics on a beat for me. Time it as I keep kicks raised. Sulla frequenza della benevolenza M2O. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Un programma vario, precario. Precario. Prende vita. Ogni giorno alle ore 18. Il cammino di Gigi D'Agostino. Vi faccio ascoltare la musica che immagino e i viaggi che sogno. E i viaggi che sogno. Cielo e non sai neanche perché. È vero. Ce lo sai, però cerchi di andare oltre a quello che già sai. È vero. Spettacolo. Mi metto i brividi. Spettacolo. Mi metto i brividi. ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. È vero, è vero. Gigi D'Agostino. Dimensione movimento. Lento, violento. Dimensione movimento. Non ti lasciare cambiare dalla tua vita. Te, trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare dalla tua vita. Te, trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare dalla tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare dalla tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare dalla tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare dalla tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. No, ma vabbè. Ma che brutta sensazione se non trovo le persone con cui posso ironizzare, contemplare il naturale, condividere il silenzio e poi dire cosa pensi, senza poi dover passare una giornata lì a spiegare. Con gli amici sintonia, storie forte così sia. Con gli amici sintonia, il malessere va via. Io con loro condivido del mio amico, io mi fido, c'è totale trasparenza e non posso stare senza, non posso stare senza. Riposino, respirazione, non ti lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non è la vita che devi cambiare. Trova il tuo tempo, cominci un po' a ballare. Ballo, perdo il nome, trovo in un'altra dimensione. Visto bene, trovo amici, belle storie, sono felici. Settimana un po' snervante, poi il lavoro che è pesante. Devo stare molto attento perché è debole il mio cuore. Per fortuna c'è l'amore. Se lei mi lascia perché dice che con me non è felice. Come cacchio devo fare se la vita non mi sotto e fa quello che gli pare. Vabbè, fa quello che gli pare. Non è lei che deve darmi. So io che non devo abituarmi. Preparazione. Si continua a idealizzare, consapevole del fatto che ogni cosa può cambiare. E magari proprio quella che per te era mai una stella. Sei sicuro di passare dalla braccia alla terra. Perché vedi ciò che cerchi solo sotto i tuoi coperchi. Che ti coprono la mente così fuse che incosciente. Vuoi uscire a idealizzare nella botola del mare. Riposino, respirazione, non ti lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. M2O. Non c'è un programma ben preciso. Ok. Perché questo non è un programma. Ma che è? Questo non è un programma. E quindi non si programma. Hai capito? Ho capito. Quindi. Muovete. Avete mai sentito parlare di quel presentatore che comincia le frasi e poi dopo... giorno metti la sveglietta. E quando suona alle 18, corri in cameretta. Il cammino non t'aspetta. Mi ricordo una volta quando ero piccolino. Discoteca. Sabato 10 giugno 2006, e cioè questo sabato, ci vediamo alla discoteca La Duchessa, Billy Oblie, Kickass. È giusto così? Sì. Via Marsicana 4, Corvaro, in provincia di Rieti. Arrivate presto perché la musica comincia alle 23:30. È vero, è vero. Si fa a stare fermo. Dai un po'. Vai sul sito www.gigidag.com. pom pom pom pom. Buona questa, no? Com'è venuta? Il cammino su un sentiero di lino, che è una qualunque passeggiata in mezzo alla carreggiata. Dai e po' sulle mani.

Arriva, arriva! Gigi D'Agostino! Salotto alle 18. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Occhio, rega. Lento. Violento. Bella Gigi. Lento. Ma che sta a fare? Ma che stiamo a giocare qua? Gigi D'Agostino!